Introdurrei il protagonista poi della serata, che sarà soprattutto Alvaro Garcia, che è un giurista di origine boliviano, esperto in diritti umani e che ha dedicato la sua vita e la sta dedicando all'attivismo. Ha collaborato con tantissime organizzazioni internazionali, anche molto note come Amnesty International, e ha fatto diversi reportage in cui ha testimoniato questa distruzione di ettari di foresta a cui faceva riferimento. In particolare lui si è occupato di quella deforestazione che è in corso nella foresta secca di Chiquitano, che è una foresta in Bolivia particolare perché c'è una fauna selvatica con specie anche uniche, e questa foresta piano piano viene deforestata in parte legalmente da aziende come la Cargill, che è un gigante dell'ambito alimentare. In parte anche sono incendi che sono non accidentali, sono incendi che portano deforestazione, che sono probabilmente voluti. Il motivo per cui si associa capitalismo a diritti umani è che questa deforestazione provoca, come dire, la spinta fuori dalle aree in cui gli indigeni, le persone vivevano in quella foresta, in quelle foreste, nella loro piccola economia, quindi una spinta forzata ad uscire da quei luoghi, oppure a sottostare a tutti i pesticidi, a tutto l'inquinamento che deriva dall'agricoltura intensiva, soprattutto di soia e allevamento di bovini, che viene messa in atto in queste foreste che vengono sottratte appunto alla natura. Possiamo dire che il caso boliviano è paradigmatico di una forma di estrattivismo, appunto, di matrice capitalista, quindi? Assolutamente sì, certamente non è l'unico, e infatti poi Alvaro ha studiato anche altri casi nell'America centrale, ma è un caso sicuramente paradigmatico. Peraltro, nonostante sembra che il governo stia cercando anche di, attraverso anche dei documenti di due diligence, quindi di cercare di in qualche modo questo fenomeno, ma con scarsi risultati. E proprio ci farà vedere Alvaro un documentario in cui lui insieme a un collega sono andati in una di queste foreste in cui gli incendi erano recentissimi, probabilmente erano stati appiccati 2 o 3 giorni prima, ancora si vedeva qualche albero che bruciava, e parla anche con una o due persone che passano di lì in questa strada completamente desolata, e quello che emerge molto chiaramente è che quello era un incendio che era stato voluto per creare spazio qui illegalmente. Ecco, lei diceva dei tentativi anche dello Stato di Boliviano di contenere questo fenomeno, ma il potere economico è più forte, quindi? Il potere economico è più forte, e sicuramente sarebbero necessarie delle misure che siano altrettanto forti, ma che probabilmente non si ha il coraggio di mettere in pratica, perché gli interessi da toccare sono potenti, come sappiamo. Quello che c'è in gioco però non è solo la vita, e sarebbe già sufficiente, delle persone che vivono in quei luoghi, ma è anche poi la salvaguardia del nostro pianeta, perché quello che succede in terre così apparentemente lontane sappiamo che ha dei riflessi anche molto evidenti nel cambiamento climatico. Diritti umani e diritti ambientali sono sempre più vicini, si toccano. Certo, sono temi che riguardano poi, ad esempio, anche il tema della giustizia climatica, che è un'espressione che appunto negli ultimi anni viene sottolineata proprio per significare questo. Esattamente, non esiste una giustizia sociale ormai se non teniamo in considerazione anche una giustizia climatica. Questo lo vediamo anche nelle nostre società, lo vediamo quando pensiamo alle politiche nostre urbane, in cui se facciamo dell'efficientamento non possiamo pensare che a questi efficientamenti possano accedere solamente le persone che hanno già case tutto sommato abbastanza ben efficientate, invece rimangano indietro l'edilizia popolare e tutte le abitazioni che ne avrebbero più bisogno, perché non c'è una concreta possibilità di accesso, che a volte non è solo economica, ma è anche di riuscire a gestirsi, a districarsi in una burocrazia che è veramente complessa da affrontare.